America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute. That I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Il giuramento solenne del presidente americano Barack Obama. Giuramento solenne di fedeltà alla Costituzione davanti a 800.000 persone, davanti a milioni di persone in diretta televisiva un po' in tutto il mondo. Una cerimonia inaugurale, quella di ieri a Washington, in una giornata fredda ma limpida, una giornata alquanto straordinaria. L'America riesce sempre a commuovere, riesce sempre a riportare l'idea che i suoi valori sono dei valori davvero alquanto unici. Ma sentiamo ancora il presidente Barack Obama, perché il suo discorso è stato ispirato, forte, ha creato dei punti di rottura con l'opposizione repubblicana, ma dall'altra ha cercato di tendere la mano. Sentiamo Obama. Each time we gather to inaugurate a president, we bear witness to the enduring strength of our Constitution. We affirm the promise of our democracy. We recall that what binds this nation together is not the colors of our skin, or the tenets of our faith, or the origins of our names. What makes us exceptional, what makes us American, is our allegiance to an idea articulated in a declaration made more than two centuries ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Barack Obama, 51 anni, già al secondo mandato, il 44esimo presidente degli Stati Uniti, alla 57esima edizione di questa liturgia democratica americana dell'inaugurazione. Ed è proprio da questo che è partito Barack Obama nel breve spezzone che vi ho fatto ascoltare, perché dice: ogni volta che ci raduniamo per inaugurare un nuovo presidente, siamo i testimoni della forza e della persistenza dei valori della nostra Costituzione. Ci viene ricordato che ciò che ci lega e che ci rende americani è la nostra fedeltà a un'idea messa per iscritto in una dichiarazione più di due secoli fa. E l'idea è l'idea dell'uguaglianza, del diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. America, we are here, our nation's capital, on this day, January the 21st, 2013, the inauguration of our 45th president, Barack Obama. We come at this time to ask blessings upon our leaders. La giornata è cominciata naturalmente prima. Al mattino il presidente Barack Obama è andato in chiesa alla St. John's Church davanti alla Casa Bianca, dove ha ascoltato la messa, poi è tornato alla Casa Bianca, ha partecipato a una riunione con la leadership del Congresso, infine è salito sulla sua limousine, è arrivato al Congresso, di nuovo un piccolo incontro e poi queste presentazioni uno per uno, la moglie di Obama, le figlie, il vicepresidente, la moglie del vicepresidente, la leadership del Congresso e così via, fino al presidente. Ciascuno ha accompagnato da squilli di trombe e rullio di tamburi. Ci sono stati discorsi di cantanti, di politici, di poeti e c'è stato l'intervento, l'invocazione, la preghiera. Pensate, la preghiera inaugurale, l'invocazione inaugurale per la prima volta è stata pronunciata da una persona laica, appunto da Merle Evers Williams. Avete sentito la sua voce, una voce autorevole, ha parlato con una cadenza che, devo dire, incuteva timore, incuteva rispetto e a sua volta un personaggio storico. E la vedova del pacifista, del difensore dei diritti civili americani Medgar Evers, che 50 anni fa, nel 1963, fu ucciso a colpi di pistola sulla porta di casa in Mississippi proprio perché cercava di difendere quei valori della Costituzione che ci ha appena ricordato il presidente Barack Obama. La scelta di Merle non è casuale, ricordiamolo, ieri negli Stati Uniti si festeggiava anche il Martin Luther King Day e dunque lo stesso Barack Obama ha voluto dedicare molta attenzione a questa giornata. A un certo punto nel discorso ha cominciato a dire: la strada non è finita, dobbiamo continuare lungo il percorso aperto naturalmente da Martin Luther King, anche lui ucciso, ma la cui opera ha portato l'America poi a poter votare per un afroamericano come lui alla guida del paese. Beh, questa la conoscete, è il Brooklyn Tabernacle Choir che ha dato questa straordinaria interpretazione di una canzone storica americana. Vi ho detto che ci sono stati anche dei poeti. Sentiamo Richard Blanco. One sun rose on us today, kindled over our shores, peeking over the Smokies, greeting the faces of the Great Lakes, spreading a simple truth across the Great Plains, then charging across the Rockies. Blanco ha scritto questa poesia per l'inaugurazione, ci ha descritto un sole che sorge lungo tutte le grandi spianate americane, ci ha parlato di un sole che sorge dappertutto e di un unico raggio, quindi un appello il suo all'unità, e ha fatto molti record Richard Blanco, perché è il primo immigrato, il primo ispanico, il primo gay ed è il più giovane ad aver mai letto una poesia durante una cerimonia inaugurale. James Taylor lo avevamo ascoltato anche alla convention a Charlotte a 64 anni, ma vediamo la parte politica. Che cosa ha detto Barack Obama in questo suo discorso? Beh, ha teso da una parte la mano ai repubblicani, ma ha voluto anche sottolineare che l'America deve affrontare, deve creare, costruire un nuovo modello, e ha proposto un compromesso. Io farò sì che ci sia più flessibilità, che il governo sia ridimensionato, che forse ci si adegui a poter accogliere le nuove tecnologie, insomma a fare tutto quello che ci viene imposto dalle sfide del nuovo che arriva, a togliere le rigidità. D'altra parte chiedo ai repubblicani di mantenere certe garanzie sociali per i giovani che devono andare all'università, per gli anziani che hanno il Medicare che gli garantisce una vecchiaia tranquilla. Non so se questa sua proposta sarà accolta, ma so che i repubblicani hanno già fatto marcia indietro un paio di volte, soprattutto nelle ultime settimane. Domani ci sarà il voto per prolungare la scadenza del tetto sul debito. Insomma, siamo in luna di miele. Il problema è che le lune di miele spesso durano troppo poco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, l'occasione di ieri è stata straordinaria, e alla fine di una giornata come quella e alla fine di quell'evento c'è stata un'interpretazione canora straordinaria di Beyoncé. Ecco, ve la voglio proporre questa interpretazione in onore del presidente, in onore soprattutto degli Stati Uniti d'America. L'inno nazionale americano, The Star Spangled Banner, Beyoncé. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!